Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti. Questo è l'ultimo panel. Io devo dire, non l'ho detto prima, lo dico adesso, sono estremamente onorata di essere qui in questa terza edizione del Festival di Letteratura Working Class, perché terza vuol dire 2 anni in più di resistenza, vuol dire non so quanti giorni, vuol dire non so quanti più mesi senza stipendio. Sappiamo tutti che la vita costa sempre più cara, sopravvivere anche con uno stipendio è difficile, sopravvivere senza stipendio io non lo so come si fa, bisogna avere una comunità che si politicizza attorno, ma si politicizza perché dalle lotte vengono le visioni di futuro. Da questa lotta è venuta una visione di futuro che ci ha tenuti tutti agganciati alla storia, anzi ci ha restituito la storia, perché sono anni che ci dicono che la storia è finita, invece la storia ricomincia non appena ce la riprendiamo in mano. E quindi io vorrei iniziare dicendo viva le lotte che ci sono in Italia, perché sono quelle che danno un futuro a questo paese, viva le lotte che resistono giorno dopo giorno, mese dopo mese, ora dopo ora, non solo facendo vertenze ma anche insegnando cosa vuol dire stare insieme, cosa significa imparare l'uno dall'altra, cos'è il futuro che vogliamo, insegnarcelo con l'umiltà di sapere che non sappiamo tutto e dobbiamo imparare uno dall'altra. Questo è un panel importante, perché in questo panel discutiamo di due delle vertenze più importanti in Italia degli ultimi troppi anni. Prima di dare la parola alla prima vertenza di cui parliamo, che è quella dell'Ilva, e quindi prima di dare la parola a Virginia Rondinelli e Raffaele Cataldi, io volevo iniziare proprio dal libro Male Sangue e da un pezzo del libro che vi leggerò perché mi sembra doveroso riprendere le parole che i lavoratori e le lavoratrici hanno scritto per raccontarci questa lotta. Quindi vi leggo 2 pagine che raccontano il 2 agosto del 2012 e quindi l'inizio dell'esperienza che poi appunto racconteremo. Era il 2 agosto 2012. Pochi giorni dopo, Cecilia Mangini sul Manifesto dedicò queste bellissime parole a ciò che abbiamo fatto quel giorno. La prima impressione, scrive, è che secondo le più consolidate tradizioni italiche il Tribunale del Riesame di Taranto abbia dato un colpo al cerchio e un colpo alla botte, un sì formale al GIP Patrizia Todisco, che per l'Ilva aveva chiesto e ottenuto l'apposizione dei sigilli del sequestro, un sì sostanziale al patron dell'Ilva, Emilio Nicola Riva, che contro il sequestro avevano ricorso. La più grande acciaieria d'Europa, che con un inquinamento ambientale monstre porta malattie e morte agli operai e alla popolazione di Taranto, resta sigillata, ma il lavoro continuerà. E le ciminiere continueranno a spargere veleni. L'inchiesta per questo disastro ambientale prosegue in attesa di ulteriori insabbiamenti. Intanto il governo ha già deciso, il risanamento lo pagherà lo Stato, come del resto aveva chiesto anche il segretario della CGIL Susanna Camusso nel movimentato comizio del 2 agosto. Ma cosa è successo realmente a Taranto durante quella manifestazione indetta dai 3 sindacati nazionali, che i media hanno descritto come una battaglia campale? È accaduto che il comizio sia stato vanificato dalla forza spontanea di una dissidenza cittadina appena organizzata. Nella fiaba è stato un bambino a dire il re è nudo. A Taranto a dire i sindacati sono nudi è stato il comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti, con un nome che oscilla tra il goffo e il libertario di 2 secoli fa. Il comitato ha preso piede nei giorni tempestosi del sequestro dell'acciaieria, con una serie di sit-in in cui chiunque aveva diritto a intervenire. Il nerbo dei liberi e pensanti è costruito dagli operai dell'Ilva, che per difendere la loro dignità non sono andati a battere le mani ai dirigenti del siderurgico messi agli arresti domiciliari il 31 luglio, e finiti sotto inchiesta per disastro ambientale doloso, omissione di cautele sul luogo di lavoro, avvelenamento di sostanze alimentari, imbrattamento di cose altrui, getto di cose pericolose e danneggiamento, come scrive la Gazzetta del Mezzogiorno il 1° agosto. Loro, i liberi pensanti, hanno deciso di rappresentare anche i precari, i disoccupati, gli studenti, le casse integrate di teleperformance, i pensionati. Hanno un programma nitido e preciso, no alla, alla violenza, sì al diritto al lavoro, sì al diritto alla salute, sì alla bonifica dell'ILVA, carico non dello Stato ma dei responsabili di un inquinamento che si è perpetuato nell'indifferenza e nel silenzio. Ai 3 sindacati avevano inviato la richiesta scritta di poter parlare nel corso del comizio. La risposta a queste lettere non è mai arrivata. La mattina del 2 agosto partecipo al loro corteo vicino a un tre ruote assai vissuto da cui partono parole d'ordine e canzoni. Le mani battono allegramente al ritmo della musica, 1000 voci in coro scandiscono libertà per Taranto, il corteo all'andamento di una festa, fumoni colorati e innocui punteggiano di arancione la fiumana di partecipanti, bambini ci vengono incontro con i loro disegni a tempera sgargiante, lo striscione che avanza in mezzo a tutti non è stampato, è fatto a mano, lettere non proprio uguali, spazi non proprio simmetrici, trasuda spontaneità e volontà di agire, la piazza del comizio è semivuota, ha parlato Bonanni, i fischi hanno punteggiato il suo discorso, il nostro conteo fluisce in piazza, la riempie, i liberi e pensanti salgono sul palco, ribadiscono la loro richiesta di poter parlare, la risposta finalmente arriva ed è no. D'improvviso accade quello che per me è un ritorno del 68, ora è qui, in questa piazza, dopo quasi mezzo secolo, è il diritto alla rappresentatività che appartiene a tutti. Sta parlando Landini, segretario nazionale della FIOM, ma diventa improvvisamente muto. Qualcuno ha staccato la spina del microfono, è un gesto accolto dall'uragano degli evviva. Scortati dalla polizia, Camusso, Bonanni e Angeletti se ne vanno. In piedi sul tre ruote che senza inciampi è arrivato al centro della piazza, due operai dell'ILVA, Massimo Battista e Aldo Ranieri, si rivolgono a una marea di gente, contrappuntati da applausi fragorosi. Lo Stato è complice di un duplice delitto, quello contro il lavoro e quello contro la salute. Siamo liberi perché vogliamo spezzare le catene del ricatto occupazionale. Nella busta paga devono mettere anche la voce tumori. Fino alla conclusione, adesso ce ne andiamo pacificamente. La folla defluisce, se ne va lenta ordinata. La polizia, intenuta antisommossa, è rimasta a osservare. La piazza adesso è punteggiata in qua e in là da capannelli. Tutto si è concluso. Gli operatori TV stanno caricando sui furgoni microfoni e telecamere, li riafferrano al volo. Camusso è ritornata e parla. L'importante è non parlare e confrontarsi con una piazza piena. L'importante è essere ripresi per i telegiornali, apparire in TV e certificare la presenza. Il giorno dopo, 3 agosto, la stampa, i grandi quotidiani, il Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero, oltre a quelli locali, sceneggia l'assalto degli eversori guastafeste, racconta scontri e tafferugli, denuncia il lancio delle uova e lo sconvolgimento dei fumogeni, descrive l'epopea di un ape car, alias il tre ruote assai vissuto, che penetra come un ariete nella piazza del comizio e la sconvolge, sostiene che la polizia intenuta antisommossa abbia caricato, peraltro senza l'ombra di un contuso. La stampa garantisce che il rito del comizio è sacro, blasfemo, e chi lo turba, eretico, chi pretende di parteciparvi. Lo stesso 3 agosto il governo approva il decreto per la bonifica secondo le richieste padronali e ahimè sindacali. Il 7 agosto il Tribunale del Riesame lo rende operativo. L'ILVA sia bonificata a spese dello Stato, non a spese di Riva e di chi come loro lo ha messo a reddito, a proprio reddito, l'inquinamento, le malattie, la morte di lavoratori a cittadini, ma a spese di tutti gli italiani, lavoratori precari, disoccupati, inoccupati, cassa integrati, studenti e pensionati. Raffaele Cataldi, Male Sangue, benvenuti. Buonasera a tutte e tutti. Il 2 agosto è storia per noi, è assegnato la mia vita, ha segnato la vita di tanti operai del comitato. Dal 2 agosto ad oggi mai nessuno di quei signori si è chiesto ma perché queste persone volevano dire quello che pensavano, perché di questo si tratta. Nessuno ci ascolta. e noi lo volevamo dire. Abbiamo fatto richieste ufficiali. Siamo entrati in piazza perché la piazza si è aperta. Non c'è stato mezzo ceffone che si è volato. Però il giorno dopo i giornali e le televisioni ci hanno descritti a piacere, un po' fascisti, un po' di estrema sinistra, un po' ultras, un po' briaconi. Nessuno ha detto che eravamo degli uomini, eravamo dei lavoratori che pretendevano di avere una vita normale, un lavoro normale. Nessuno l'ha detto e da allora nessuno lo dice. Anzi, quando cerchiamo di far sapere a tutti come stanno realmente le cose, ci apostrofano sempre nello stesso modo. Sono vagabondi, non vogliono lavorare, sono violenti, perché questa storia ha fatto fare carriera a più di qualcuno. C'è qualche sindacalista che ha detto che è stato sequestrato, c'è stato qualcuno che ha detto che gli abbiamo rotto le macchine, c'è qualcuno che ha detto che ha avuto ceffoni. Tutte storie inventate, come hanno inventato tutto il resto della storia che riguarda Taranto. Ma realmente chi si è chiesto cosa volevamo? Io ho preso volutamente un articolo di Cecilia, perché se facevo il mio racconto, e l'ho fatto perché io ho scritto di quella giornata, sono partito dalla mattina alle 6, come mi ero vestito, cosa è successo. Però ho detto, l'unica giornalista che ha chiesto, ma cosa vogliono questi ragazzi e queste ragazze? Che cosa succede? Nessuno ha risposto. Nessuno ci chiede ancora che cosa vogliamo. Ma possiamo essere rappresentati da chi ci vuole dare ancora pane e veleno? Assolutamente no. Guardate, su questa storia ci hanno fregati tutti ci hanno fregati. Dal destra, sinistra, dai 5 Stelle, tutti ci hanno fregato, hanno fatto solo campagna elettorale alle nostre spese. Ma la situazione è sempre uguale, gli impianti sono gli stessi. Gli impianti sono gli stessi. Dovevano essere messi sotto sequestro. Ma 18 decreti consentono sempre la produzione. Muore un operaio, dopo 15 giorni c'è un decreto, il decreto Renzi, che era di sinistra se non sbaglio. Decreto Renzi per far ripartire la produzione, perché c'erano 60 giorni di sequestro degli impianti, quando noi dovevamo scioperare per quel morto. 9 morti sul posto di lavoro dal 2012 ad oggi, non si possono sentire. Se quella fabbrica fosse stata fermata in tempo, quei 9 ragazzi probabilmente stavano a casa con le loro famiglie. Invece sono entrati in fabbrica e non sono più usciti. È quello che succede a tutti gli operai che entrano in fabbrica. E parlo della nostra fabbrica, perché si deve fissare un punto: noi non siamo contro il sindacato, ma siamo contro quei sindacati che non fanno il loro dovere. E a Taranto i sindacati non fanno il loro dovere. È questo che vogliamo puntualizzare. E siccome prendono ordini da chi gestisce, dai segretari nazionali, che non conoscono neanche le portinerie dello stabilimento, allora purtroppo ci tocca generalizzare. Però se in un altro posto il sindacato funziona, noi siamo contenti. E come se siamo contenti? Perché è quello che chiediamo. Questo va puntualizzato, perché spesso ci dicono che siamo contro i sindacati. No, siamo contro il sindacato che non funziona. Contro quel sindacato che si è venduto tutti i diritti conquistati da chi è morto per quei diritti. L'ho detto più volte, a noi a Taranto, per avere una settimana di informazione giusta, per far conoscere com'è la situazione della nostra città, ci siamo inventati l'1 maggio. E lo chiamiamo 1 maggio, ma vorremmo chiamarlo anche noi 1 maggio. Solo che c'è un problema: noi non abbiamo niente da festeggiare. Abbiamo morti e disoccupazione, perché alla fine neanche il lavoro che dicono che vogliono tutelare, tutelano. Perché è sottoscritto in cassa integrazione a 0 ore dal 2018. Precedentemente abbiamo fatto anche la solidarietà, che per un'azienda, i contratti di solidarietà per un'azienda così grande non dovrebbero esistere. Lavorare meno per lavorare tutti, in un'azienda di 20.000 persone, 15.000, 11.000, ci devono spiegare come si fa. Ci devono spiegare perché i Riva riescono ad avere la cassa integrazione nonostante nel 2008 fanno record di produzione. 11 milioni di tonnellate. Tutte cose che dovrebbero spiegare i rappresentanti degli operai agli operai. Ci devono spiegare perché a Genova si chiude l'area a caldo, perché non, è nociva per gli uomini, e viene portata a Taranto. Ci devono spiegare perché quell'accordo di programma che hanno fatto a Genova non può essere fatto a Taranto. Tutte cose che nessuno ci viene a spiegare, ci viene a chiarire, lo devono fare pubblicamente, non ci dobbiamo chiudere in nessuna stanza, perché questo, se uno non ha niente da nascondere, pubblicamente si confronta. Il 2 agosto è stato questo, un confronto, la voglia di farsi ascoltare. Purtroppo non ci ha ascoltati nessuno. Landini si è offeso perché a un certo punto gli è stato staccato il microfono. Ma purtroppo non è, se non ci volete ascoltare, perché qualcuno si augurava le cariche della polizia, che non ci sono state, perché i nostri colleghi, gli operai che stavano in piazza, ci hanno riconosciuti. E se ci hanno riconosciuti vuol dire che noi abbiamo fatto qualcosa di utile per i lavoratori. Perché voglio ricordare a tutti, io ad esempio ero iscritto, sono stato iscritto fino al 2013 alla FIOM, nella FIOM. Nonostante il 2 agosto 2012 io ancora speravo in qualcosa. La mia tessera l'ho dovuta strappare perché è morto un nostro collega schiacciato tra la motrice e la carrozza del treno. E questi, prima, precedentemente è stato firmato un accordo dove si lavorava in due su quelle macchine. Con quell'accordo si è arrivati a lavorare da soli. Quel ragazzo è morto agonizzante e noi volevamo chiedere conto a chi aveva firmato quegli accordi. E abbiamo dovuto occupare la sede dei sindacati a Taranto. Abbiamo occupato le scale, non abbiamo occupato le loro stanze. E siamo stati accusati di aver occupato illegalmente il palazzo del governo. Di questo si tratta. Queste sono le accuse, queste sono le violenze che noi in questi anni abbiamo fatto. Abbiamo dato parola a tutti, noi facevamo assemblee, quello è stato un periodo bellissimo, facevamo assemblee, anche con 1.000 persone abbiamo fatto assemblee. Un momento collettivo stupendo, io ho preso tanto da quelle assemblee, non ero formato assolutamente, quelle assemblee mi hanno formato, è stata una cosa bellissima. Un lavoro collettivo che il comitato è riuscito a fare, bellissimo. Ripeto, e culturalmente, a livello politico, ho appreso tanto. Cosa che non immaginavo. E questo è grazie a tutti i compagni del comitato, grazie a Virginia, grazie a tutti quelli che avevano qualcosa in più da regalare agli altri. Questo è stato il comitato, questo è il comitato. Questo è il nostro 1 maggio. Questo è un gruppo di persone che ha subito tanto, tra virgolette ha perso il lavoro, perché a noi ci dicono da contratto, noi tra il 2023 e il 2025 dovevamo rientrare in fabbrica, siamo nel 2025, e il nuovo padrone vuole licenziare altre 1.500 operai di Acciaierie Italia, perché c'è la differenza, noi siamo Ilva in amministrazione straordinaria, quelli che lavorano ora all'ex Ilva sono Acciaierie Italia, il prossimo padrone che verrà ci metterà una bella nave riclassificatore e in più vuole 1.500 operai in meno, quindi il lavoro che qualcuno si vende da tutelare, qualcuno ci dice che dobbiamo tutelare il lavoro, lo perdiamo ancora e nello stesso tempo continuiamo a morire, continuiamo a far ammalare gli operai, io dico si ammalano prima gli operai. E poi si ammalano per la seconda volta gli operai che sono cittadini. E poi si ammalano i nostri figli. E poi si ammalano le nostre mogli. I nostri parenti che tutti usano quando devono fare campagna elettorale. Tutti parlano dei malati di Taranto. E poi non sono in grado di darci la sanità. non sono in grado di darcela un'università. Noi siamo utili al PIL nazionale, però i nostri figli devono andare a studiare fuori se vogliono studiare, perché non abbiamo neanche un'università. I nostri figli devono scegliere di andare a studiare fuori, non devono essere costretti, devono scegliere di andare a lavorare fuori, non devono essere costretti. Noi siamo costretti a fare tutto. In una città che è sempre nelle ultime classifiche di vivibilità, quindi l'Ilva non ci dà niente. Ecco perché gli operai dello stabilimento vogliono la chiusura di quella fabbrica. È questo. Non mi posso andare a suicidare. Virginia, dunque, volevo chiederti se ci racconti un po' dove siamo e un po' se ci dai una sintesi, se tu vuoi, di quello che è accaduto in questi anni, anche alla luce del fatto che noi abbiamo preso un sacco di cose, proprio parlando di esperienze di lotta che poi servono alle lotte, abbiamo appreso un sacco di cose dall'esperienza dell'Ilva, dall'esperienza del quartiere, che comunque è una cicatrice vivente, se vogliamo, e anche da quello che è successo in tutti questi anni, perché se all'inizio si era deciso, a me aveva colpito che studiando la storia di quella fabbrica, all'inizio si era deciso di investire a Taranto perché c'era la classe operaia più avanzata intellettualmente di tutta Italia, e è un paradosso che poi insomma si vada a investire, nel senso, con delle speranze di progresso, di crescita, che poi sono state martoriate, per dirla brevemente. Ma volevo chiederti se ci puoi raccontare, appunto, dal tuo punto di vista, che sei parte del comitato, curi la comunicazione, nella tua introduzione bellissima al libro racconti anche cosa è stato quel 2 agosto, però anche se ci racconti cosa è successo dopo quel 2 agosto. Grazie Francesca. Io ripartirei da quello che ha detto Cecilia con quello che ha detto Raffaele. Hanno fatto una cosa semplice che loro sentivano dovuta, hanno preso coscienza e hanno preso posizione rispetto a quello che c'era in fabbrica, come abbiamo detto già ieri. Ma nel frattempo lo Stato e il sindacato e il padrone allineati non si sono fatti trovare, no, impreparati in quel 2012. Per quello che siamo noi cittadine e cittadini, loro hanno fatto qualcosa di mastodontico, perché senza di loro, senza la loro presa di posizione, Taranto, le cittadine, tutte le famiglie non avrebbero mai saputo quello che accade dentro, perché uno degli spot pubblicitari del tempo che la stampa pagata, perché è pagata, perché lo dice anche un processo, che la stampa veniva pagata col sistema Archinà, ormai buonanima, però quest'uomo faccendiere che si occupava di tutte le faccende oscure, no, dei Riva, della famiglia Riva, e della gestione, delle relazioni con tutti gli ambiti della comunità tarantina. Questo spot diceva: c'è tutto un mondo dietro, ma c'è un mondo dentro, c'è un inferno, e non spetta a noi neanche giudicare chi non riesce a liberarsi, no, dal ricatto occupazionale, però spetta a noi prendere una posizione. Noi abbiamo potuto farlo perché loro ci hanno raccontato la verità, ma lo Stato era già pronto. Qualche giorno prima, quando c'è stata la pubblicazione dell'ordinanza di sequestro che mette nero su bianco che quella fabbrica produce malattie e morte, mentre loro si rifiutavano di bloccare la città, alcuni altri attivisti ed attiviste erano a Roma sotto il Ministero dell'Ambiente a manifestare. Ora l'ordinanza viene pubblicata, resa pubblica intorno alle 13:30. Io ero con 2 persone, due donne meravigliose che avevano perso, una il marito, l'altra il figlio, in quella fabbrica maledetta. Si sono guardati in faccia pensando di stare avendo giustizia. Così non è stato, perché alle 15:30 c'era già la conferenza dei servizi per parlare di quell'AIA che è stata subito concessa. Oggi, dopo 13 anni, abbiamo i lavori conclusi sull'ennesima AIA che verrà concessa di nuovo. L'AIA è l'autorizzazione integrata ambientale che dice: se fai questi bei lavori alla tua fabbrica puoi continuare a produrre. Come si faccia a dare credibilità ad una fabbrica che ha dovuto godere di uno scudo penale per essere affittata degli investitori stranieri, non si sa. Ora, lo scudo penale rappresentava questo, e se ammazzi, perché per lavorare in quella fabbrica, far lavorare quella fabbrica significa ammazzare, non andrai, non subirai conseguenze penali. Questa immunità nel nostro paese spetta solo ai parlamentari, come sappiamo, e extra Parlamento spetta solo al Papa. Quindi noi siamo stati capaci di fare, di mettere in atto un'anomalia giudiziaria, giuridica, che fuori dal mondo proprio. Da allora si sono susseguiti, questo Stato che ci ha visti come avversari, e c'è un motivo se ci vede come avversari, ha messo in atto 18 decreti salva Ilva. In nessuno di questi viene detto che cosa si può fare veramente per la tutela, la sicurezza sugli impianti e contro le malattie professionali. Non è un caso se a Taranto si continua a morire dentro e fuori dalla fabbrica, ci si ammala di malattie correlate all'inquinamento e se ne scoprono sempre di più di insospettabili. Si scopre che i bambini e le bambine del quartiere Tamburi hanno un deficit possibile anche del 10% in meno di quoziente intellettivo, che è una discriminazione razziale, razzista, ambientale nei confronti delle persone, che è inaccettabile ed è a norma di legge. Questo è. Allora, questi 18 decreti, l'ultimo sarà adesso, dicono che non è cambiato niente. Intanto sono morte però 9 persone. E la cosa raccapricciante è quello che diceva Raffaele, un decreto governativo che dopo 2 anni però è stato dichiarato incostituzionale. Intanto, se qualcun altro fosse morto sullo stesso impianto di Alessandro Morricella, perché i morti hanno un nome, nessuno avrebbe pagato. Renzi non è stato penalizzato né come privato né come presidente del Consiglio, insomma, che cos'era, il Consiglio dei Ministri. Il nostro Premier non è stato, voglio dire, penalizzato. Questo accade mentre noi nel 2018 portavamo a Taranto con il piano Taranto e grazie a Stefania Barca il concetto di giustizia ambientale. Che succedeva? Si fittava a Mittal con la firma dei sindacati confederali e dell'USB. Mittal oggi è indagato, l'amministratrice delegata, la Morselli, è indagata per gli stessi motivi che Cecilia elenca all'epoca: getto di cose pericolose, assenza di manutenzione. Questo significa che lo Stato e gli investitori non hanno e non possono avere intenzione di investire cifre sbalorditive su qualcosa che è ormai marcio, dentro, sotto, sopra. Ogni qualche mese il NOE scopre che c'è un'altra falda inquinata, che sono state stoccate sostanze nocive in un'area immensa. Nessuno sa che l'area a freddo è quasi completamente chiusa perché se Raffaele in cassa integrazione dal 2018, noi abbiamo cassa integrati da 15 anni. Ora, questo splendido assetto industriale, che ormai è tutto in amministrazione straordinaria, è stato affidato a dei commissari straordinari di tutto rispetto. Fra loro ci sono i consulenti e vengono tutti dai consigli di amministrazione di Eni, Telecom, Enel, sono loro. In aggiunta invece le figure tecniche sono dei commissari straordinari, 40, un ingegnere dell'Ilva che non è mai uscito dall'Ilva in 40 anni, nonostante sia stato condannato in via definitiva per ben 3 infortuni mortali occorsi in Ilva. Questa è l'intenzione dello Stato a chi affida la fabbrica. L'altro tecnico, Ruggero Cola, è stato dichiarato l'anno scorso colpevole e condannato a 6 anni di reclusione in primo grado per la morte esattamente di Alessandro Morricella, costretto a lavorare in condizioni, dice nero su bianco la disposizione, il dispositivo della sentenza, per dare priorità alla velocità di produzione. Ora, questo è accaduto, quello fa lo Stato e quello facciamo noi. Noi ci difendiamo. Dopo 7 anni, nel 2012 è morto Francesco Zaccaria su una gru che si è spezzata perché c'è stato un tornado, nel libro Raffaele ne parla. Immaginate un tornado in quella fabbrica, amianto che vola, c'è stato di tutto, ma soprattutto una gru si è spezzata. Un ragazzo è stato scaraventato pensando di essere nel posto più sicuro della gru, cioè la cabina che deve essere fermata nel momento in cui c'è una condizione atmosferica grave, e invece no, perché la mancata manutenzione aveva sostituito il fermo, che è di cemento ed è di 10 metri, con un pezzo, con un ferretto da casa, diciamo, per chiudere una porta di casa. Quindi la cabina è stata sbalzata a 30 metri lontano ed è scesa a 30 metri di profondità. Ci sono voluti 3 giorni per recuperare il corpo di Francesco Zaccaria il 28 novembre 2012. Questa è stata l'Ilva. E nel 2020 un altro compagno, Massimo Massaro, giovanissimo, con una moglie giovanissima e 2 bimbi piccoli, fa la stessa fine, ma la cosa aberrante è che la fa sulla stessa gru. Dopo 8 anni un altro ragazzo muore sulla stessa gru, per lo stesso motivo, perché ha preso velocità, perché la gru deve prendere velocità, perché si lavora, se lavori senza freni sei più veloce. Se le benne, che devono essere quelle chiuse perché lo spolverio danneggia tutti quelli che lavorano, ma anche tutti quelli che abitano in quel luogo circostante, invece di essere chiuse, sono coperte con le vele delle, quelle dei parcheggi, delle frescherie che usiamo per ripararci dal vento, quelle vele hanno fatto, quei teli hanno fatto da vela, la gru ha preso una velocità tale che si è spezzata ed è morta un'altra persona. Anche per quella persona ci sono voluti 3 giorni per recuperarla. Noi eravamo al porto, gli altri operai entravano a lavorare perché alcuni devono essere di comandata. Però ricordatevi che non c'è stato uno sciopero che abbia superato le 4 ore per questi morti. E questa è una cosa vergognosa. E la moglie era lì che aspettava ed ha aspettato 3 giorni perché non avevamo neanche le attrezzature per recuperare quel pezzo di gru in mare. Abbiamo aspettato un'azienda veneta. Ora lo Stato che ha fatto? Li ha riconosciuti come pericolosi. Li ha, laddove non è riuscita a minimizzare il loro operato, li ha demonizzati e li ha criminalizzati insieme a loro tutti quanti noi. Ma d'altronde è quello che accade a tutti i movimenti che rivendicano qualcosa: diventiamo colpevoli, diventiamo pazzi, nella migliore delle ipotesi siamo un po' fuori di zucca, diciamo, vogliamo pretese che campate in aria. Noi invece riteniamo questo, siccome siamo quelli e quelle che lavorano sia per il profitto di pochi, ma soprattutto sono quelli che mantengono in vita, no, questo tutto questo mondo, tutta questa baracca, bella e brutta che sia, pensiamo di avere il diritto di godercela in santa pace. Che significa? Significa che ogni territorio deve essere libero di scegliersi con la comunità che abita, e la comunità che ha lo abita e lo tiene vivo, lo tiene in vita, con tutto ciò che si muove nel territorio, deve scegliersi il modo autodeterminare come relazionarsi in maniera sana a questo territorio, come relazionarsi in maniera sana insieme alle altre persone, agli altri soggetti che lo abitano. E questa, l'autonarrazione, deve precedere l'autodeterminazione. Noi non vogliamo altro, vogliamo semplicemente fare ciò che spetta a tutte e a tutti quanti noi. Ed è quello che auguriamo anche a GKN, perché naturalmente abitare questo territorio, come diceva prima la compagna del sindacato, ha esigenze diverse, e quindi la territorialità non può essere un pretesto per fare altre magagne come la politica italiana è abituata a fare, come hanno fatto tanti partiti in campagna elettorale. La territorialità significa proprio dare la libertà, ma io temo questo, che la libertà sia qualcosa che spaventa, perché la libertà di tutti significa che qualcuno deve rinunciare a qualche privilegio di troppo, no? È solo quello. Grazie veramente. Dunque, queste due vertenze, questi due libri hanno chiaramente risuonano della stessa urgenza di giustizia sociale, di giustizia ambientale, di giustizia climatica, di movimenti che cercano appunto di diventare un'alternativa, ma risuonano anche di tutta una serie di contraddizioni che appunto Virginia e Raffaele ci hanno ben elencato adesso, cioè del fatto che quando si portano in evidenza delle contraddizioni, invece di essere quella parte del paese che lavora per un futuro che non sia tossico, che non sia mortale, che non sia omicida, invece di questo quello che avviene è che le persone vengono criminalizzate. E quindi queste due vertenze, pur nella loro differenza, pur nel fatto che appunto Taranto abbiamo un chiaro caso di razzismo ambientale, le parole che io mi sono scritta per tenermi una mappa di questa discussione hanno a che fare con trauma, morte, l'impatto psicologico di avere appunto di perdere dei colleghi, di lavorare nell'omertà, di avere lo Stato contro, di lavorare contro tutti per portare giustizia, sono ferite che ci si appunto guarisce insieme, però questo non toglie che è troppo faticoso se questo continua per anni, anni, anni, anni senza alcun riconoscimento pubblico. Quindi queste due vertenze sono diverse, però si parlano, e si parlano proprio anche perché come la raccontiamo noi è più o meno opposto a come ci vengono raccontate. E quindi passo la palla, ma poi magari appunto abbiamo un po' di minuti per parlarne insieme. Passo la palla a Gea Scancarello, che con Dario Salvetti ha scritto questo libro, Questo lavoro non è vita, per Fuoriscena. Questo lavoro non è vita è un titolo forte, se vogliamo, anche perché abbiamo appena ascoltato esperienze in cui questo lavoro poi diventa morte di fatto, quindi che tipo di lavoro vogliamo, che tipo di lavoro meritiamo? È veramente paradossale che da 30 anni, 40 anni tutte le politiche sul lavoro mancano di una sola cosa: una visione qualunque di futuro, perché anche la riconversione dell'automotive, adesso si parla appunto di industria bellica, è il sintomo di un'assenza di qualunque tipo di futuro, quindi di una classe dirigente che da 40 anni farà qualcosa ma non fa tutto quello che serve. E quindi a Gea Scancarello, che è una giornalista di La Sette, che è un'analista economica e politica e che anche forse colei che ha rincorso Dario Salvetti per vari mesi per provare a fare questo libro, perché giustamente le sembrava importante che questa esperienza avesse un altro strumento di lotta, avesse un altro strumento di comunicazione, visto che Gea lavora tutti i giorni con quello che appunto la narrazione dominante ci racconta. Quello che le volevo chiedere è: da dove l'urgenza di questo libro e come vive questa continua discrasia tra quelli che sono i problemi reali e come vengono raccontati? Grazie Francesca, buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qua. Oddio che domanda. Guarda, devo dire la verità, voglio essere sincera, lo vivo con un senso di inadeguatezza, nel senso che una cosa che è sicuramente vera, abbiamo sentito prima i compagni parlare di come i giornalisti hanno trattato le vicende, di come ne hanno scritto, lo sappiamo, le leggo, io stessa sono mi indigno quotidianamente con i colleghi, con la categoria, con il lavoro che io stessa faccio spesso, e quindi mi sono approcciata alla vicenda GKN in effetti con un profondo senso di inadeguatezza, perché mi dicevo che diritto hai di raccontare questa cosa, cioè perché appartieni a una categoria che non voglio definire nemica perché non lo è, però che spesso ha tradito la classe lavoratrice, anche quando peraltro tradisce se stessa, nel senso che un racconto che non si fa mai è che gli stessi giornalisti che una volta erano una casta sono diventati una categoria immiserita, con scarsissima capacità aggregativa di lotta, anzi quasi assente di lotta, e quindi diciamo tradiscono se stessi noi tradiamo noi stessi nel non riuscire a raccontare il lavoro come viene raccontato. Quindi in primis mi sentivo che mi sono chiesta: ma io posso raccontare questa storia? Sono titolata a farlo, e questa è la prima. La seconda, per essere onesta, mi sentivo inadeguata anche per un punto di vista veramente di classe. Parliamo di working class siamo tutti, anch'io sono working class, io vengo da un'estrazione borghese inizialmente, e quindi diciamo io che faccio un mestiere teoricamente intellettuale di estrazione borghese ho il diritto di raccontare una delle più dure lotte operaie di questi ultimi 20 anni, 30 anni. È stato difficile, ho dovuto interrogarmi parecchio su questo. E da ultimo la terza, una difficoltà gigantesca che mi ha mosso è: ma con che diritto io arrivo e parlo con degli operai e delle operaie che non percepiscono lo stipendio da un anno e chiedo loro di raccontarmi delle cose senza scadere nel paternalismo, senza adoperare quegli strumenti retorici che popolano i media, restituendone la sincerità ma senza drammatizzazione? Ecco, diciamo, queste sono le domande che mi sono fatta, e la risposta e l'urgenza è stata quella di: beh, devo fare proprio perché non mi va quel racconto lì. Uno dei filoni di questo festival è: raccontiamo noi per non essere raccontati. E questo è vero di tutte le battaglie, è vero anche di me e del lavoro che faccio, ed è verissimo della GKN. Per cui diciamo, i giornalisti hanno accolto con una fiducia veramente fideistica l'arrivo di Borgomeo quando è arrivato, e le 4F, fiducia nel futuro della fabbrica di Firenze, no? Bisognava essere fiduciosi, ma fiduciosi di cosa? Cioè, l'urgenza che hai è quella di conoscere, perché le conosci, le dinamiche del capitalismo, e di non scadere nel racconto della classe dominante. Una cosa che fanno i media anche per proprietà, cioè per assetto proprietario, è quello di adottare costantemente il punto di vista della classe dominante. Ecco, questo libro nasce dal mio tentativo di non adoperare quella cosa e di iscrivere me stessa anche all'interno di una categoria e di una classe di lavoratori, perché questo sono anch'io essenzialmente, e di ritrovare nella comunità, in questa comunità che vediamo oggi riunita, che ha dello straordinario, cioè questi 4 anni di lotta non sarebbero stati possibili senza la comunità che ha sostenuto, esserne parte, perché esserne parte significa anche avere quella visione e, diciamo, quell'idea di futuro di cui non sono privati soltanto gli operai dell'ILVA, gli operai della GKN, ma siamo privati un po' tutti. L'abbiamo detto abbondantemente prima, cioè c'è la crisi climatica, c'è la crisi bellica, abbiamo un problema di giustizia sociale e ambientale, abbiamo una mancanza di classe dirigente, abbiamo una mancanza di capacità di pensare a un futuro. Ecco, il futuro viene da qua, cioè il futuro viene dal basso, questa è una prova di futuro evidentemente, è quello che si è detto, ed è una prova di futuro che va esportata. E devo dire che E poi passo la parola a Dario, ma che per me è stato così difficile inizialmente fare questo lavoro, non soltanto perché, come dire, per le ragioni dette precedentemente, ma perché in fin dei conti alcune delle cose che raccontiamo nel libro, che sono le difficoltà di far rispettare dei diritti, di essere una forza compatta, di non soccombere al padrone, sono dinamiche che vivo io sul lavoro, cioè che viviamo tutti sul lavoro. Io le sento, le vivo, le patisco, e dico una cosa: quando l'editore ci ha proposto questo titolo per il libro, io sono stata attraversata dalla paura per un secondo, perché ho pensato, faccio un libro così, mi faranno un mazzo tanto, cioè scatenerò un casino, perché tecnicamente, diciamo, parla anche di me. E poi ho deciso che se vuoi essere parte di una lotta devi metterci un po' anche il tuo piccolo corpo, e quindi ho provato a metterci anche il mio con questo libro e con questo titolo. Ecco. Dunque, mi viene un po' da tornare con la mente al primo festival di letteratura working class, perché io mi ricordo ancora quando l'abbiamo fatto all'interno, era quella stanza piena di 1000 persone con panel che si ripetevano uno dopo l'altro, e mi sembrava come se per la prima volta nella mia vita, ed è lunga, è stata lunga, ci fosse un'occasione in quella enorme stanza di chiederci cosa significa in quest'epoca fare parte della classe lavoratrice. Ed era interessante perché veniamo tutti da percorsi diversi, cosa vuol dire? Poi soprattutto questa cosa della coscienza di classe è stata erosa, è stata criminalizzata, è stata ricattata. Appunto, parlare nei luoghi di lavoro alle volte significa esporsi a dei ricatti. Però rispetto a quello che è accaduto 2 anni fa, a quella edizione del festival, a me sembra che siamo invece in un altro momento storico, perché ci sono crepe, queste due vertenze raccontano crepe che si stanno aprendo davanti a noi, ma sono crepe enormi, ed è come se, sembra retorica, ma anche guardando al passato, veramente le uniche visioni di futuro sono state nelle lotte. Io adesso sto facendo un lavoro sulla democrazia e mi colpiva che l'eguaglianza è stata combattuta dalle classi dirigenti per secoli. E i primi ad aver, insomma, tra i primi ad averla avuta in Italia un'idea di uguaglianza c'era il tumulto dei Ciompi, perché i Ciompi dicevano siamo tutti uguali, poi però alcuni vestono vesti nobili e borghesi e altri non possono, però è da qui che è venuta l'idea di democrazia, di suffragio universale, di diritto alle donne, di desegregazione, di decolonizzazione, è dalle lotte che siamo andati avanti. E quindi, anche se adesso la congiuntura storica, per dirla così, non è delle migliori, però non è delle migliori anche perché evidentemente hanno paura delle visioni che nascono dalle nostre lotte. Quindi, prima di passare la parola a Dario, volevo leggere un passaggio di questo libro densissimo, che quindi consiglio di prenderli entrambi, anche se so che Male Sangue è finito, perché me l'ha detto prima l'editore, però è finito qui, però c'è. Vi leggo un brano. Provare a creare un circolo virtuoso implica invece dotarsi di uno scopo e di un approccio valoriale. Spesso comporta entrare in una situazione di dolore, di privazione e di sacrificio che nell'immediato provoca angoscia. Farà sorridere, ma col tempo ci si rende conto che l'angoscia è veramente terapeutica per cambiare. Sveglia dal torpore, aiuta a uscire dalla routine. Rinunciare a quella routine è faticoso e la fatica può mettere in grande difficoltà, soprattutto perché la lotta non è una passeggiata, anche sul piano squisitamente personale. Eppure, nonostante tutto, aiuta a tirarsi fuori da altri tipi di disagio e di perdita di salute. Fuori dalla mobilitazione non c'è salvezza. Non c'è alcuna misura che abbia comportato progresso sociale che non sia scaturita da una lotta anche dura. Attenzione! Non significa che la lotta ripaga subito, mentre la si conduce restituendo la quantità di energie e di tempo investita. No, la lotta paga in generale, a volte anche come valori e processi da lasciare ad altri, che contribuiamo a costruire nostro malgrado. La condizio sine qua non è avere un'impostazione valoriale forte. Curiosamente non conta non tanto nell'innesco, mi ribello a qualcosa perché è incompatibile con quello in cui credo, ma nella durata. E quindi anche nell'efficacia della battaglia, perché la capacità di non mollare non dipende solo dalla resistenza o dall'orgoglio individuale, bensì dalla convinzione che stai andando nella giusta direzione. Dario Salvetti. Grazie a tutti e a tutti. Noi siamo un po' in difficoltà, non so se arriva il rumore dello striscione che sbatte le catene contro la fabbrica, non so se arriva fin lì. Questo striscione lì non ci vuole proprio stare, sarà la terza volta che lo rimettiamo. Evidentemente dobbiamo toglierlo perché non è il suo posto, mettere stop speculazione fuori e il prossimo anno mettere fabbrica pubblica socialmente integrata sul tetto. Proviamo a vedere se così funziona. In questo festival ci sono state delle presenze sindacali, hanno parlato prima le compagne e compagni del Sud Cobas, hanno parlato anche perché c'è il libro, le compagne e compagni del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti, che sono realtà che così in gergo giornalistico chiameremmo extraconfederale, con questo termine che spesso vuol dire tutto e nulla. Vorrei specificare che in questo non c'è nessuna scelta precostituita o di in qualche modo politicismo o tatticismo da parte del collettivo di fabbrica, tant'è che abbiamo e continueremo a invitare qualsiasi organizzazione sindacale porti avanti mobilitazioni sacrosante e giuste. Noi apparteniamo a altre organizzazioni sindacali, in uno dei panel c'era Eliana Como che è del comitato centrale della FIOM, ma queste scelte appartengono esattamente a quella scala valoriale di cui si parlava in quel pezzo. Noi facciamo fatica ad accettare ragion di Stato, figuratevi se accettiamo ragion di apparato. Esistono le lotte sacrosante, giuste, e anzi noi crediamo che il riconoscimento dell'importanza di queste lotte, qualsiasi sia la bandiera organizzativa sotto cui emergono in quel momento, sia fare bene a se stessi, a se stesse e di conseguenza all'organizzazione di cui si fa parte, visto che un'organizzazione è prima di tutto una scala valoriale e una scala di principi. E quindi nel momento in cui c'è una lotta che unisce lavoro e ambiente e che ha ragione e ha avuto ragione su quello che succede a Taranto, questa lotta è una lotta che noi appoggiamo indipendentemente dalle forme organizzative con cui si esprime, indipendentemente da quale sia il segretario generale a cui stacca il microfono in quel momento storico. Così è e così sarà sempre, anche perché affrontare una lotta che si propone di essere maggioritaria vuol dire passare anche da tutta una serie di meccanismi complessi e complicati. I rapporti di forza sono una trappola che spesso ti costringono a passare da meccanismi, da non tanto compromessi, ma proprio da vie che non sono quelle che avevi immaginato. E per percorrere insieme quelle vie devi avere sempre una scala valoriale forte, autorevole, che permette di mantenere quella fiducia in una comunità che anche quando attraversi delle scelte, delle vie che non ti immaginavi, nessuno pensa che stai cambiando il percorso, ma semplicemente che lo stai percorrendo con più efficacia. Noi oggi stiamo chiedendo l'applicazione di una legge varata dal Partito Democratico. Apparentemente questa è una contraddizione rispetto a tutta la storia politica che conosciamo in questo paese, ma credo che nessuno oggi pensi che questa è una contraddizione del collettivo di fabbrica. Questa è una contraddizione che noi abbiamo ributtato nel campo della politica e staremo a vedere se un apparato di uomini, di donne che hanno portato avanti politiche totalmente diverse di segno, privatistiche e a servizio del capitale, oggi è in grado di fare un altro tipo di politica. Lo vedremo insieme, lo verificheremo insieme e ovviamente nel fare questo non ci sarà nessun tipo di sconto. Ieri abbiamo fatto la manifestazione che è terminata in piazza con un intervento della vice sindaca di questo comune, che ha in realtà una idea politica più vicina alla nostra, ma non ha parlato perché è un'idea politica più vicina alla nostra, ha parlato perché noi pretendiamo dal comune di Campi di Bisenzio, così come dagli altri comuni della Piana, di mettersi all'altezza del compito storico di produrre qua un esperimento sociale che non è avvenuto, non è mai avvenuto nel periodo recente e che oggi ci permette forse di sconfiggere non solo la delocalizzazione, non solo l'impoverimento, non solo l'arroganza padronale, ma anche l'estrattivismo in un territorio. Il fatto di poter venire qua, consumare suolo, fare quello che si fa, andare via e non rendere conto a un territorio di che cosa serve questa fabbrica. Il cemento... Il cemento sul quale poggiano queste sedie è stato calato perché ci fosse lavoro ed è già discutibile che si debba mettere del cemento per creare lavoro, ma visto che questo cemento ce lo ritroviamo qua, intanto pretendiamo che serva a creare lavoro intanto e pretendiamo anche che se si ricrea lavoro oggi, questo lavoro riparta dalle esigenze sociali riconosciute, che sono quelle ecologicamente avanzate, non nell'illusione che esista un capitalismo verde, ma nell'illusione, nella speranza, nell'obiettivo che costruendo soluzioni ecologicamente avanzate, queste cozzino con il mercato, cozzino con il capitale e ci aiutino a portare avanti la sfida con il capitale sul livello più alto, perché se mai nascesse la fabbrica socialmente integrata che produce pannelli fotovoltaici e cargo bike, difficilmente sarebbe una fabbrica che sopravvive nel mercato così com'è. Sarebbe una fabbrica che deve continuamente porsi il problema di cambiare rapporti di forza nella società se vuole sopravvivere e contemporaneamente dovrebbe collegarsi a chiunque fa questo per poter effettivamente vivere come fabbrica con salari dignitosi e con una produzione. Questo è in qualche modo il punto in cui noi oggi ci troviamo. In tutto questo è significativo perché noi spesso ultimamente parliamo di paese, il paese dove diminuisce la produzione industriale, 24esimo mese, il paese che viene depredato dalle multinazionali, il paese che si impoverisce, penso di averlo detto diverse volte, l'Italia è il paese che macina record negativi su record negativi, li stiamo facendo tutti, comprese anche le non partecipazioni ai mondiali di calcio, anche quelli sono record negativi, quindi nemmeno questo ci regala il sovranismo, se qualcuno fosse interessato a questo lato della vita, probabilmente andiamo fuori anche dal prossimo, però a parte le battute, L'aria più inquinata d'Europa è qua in pianura padana. Il maggiore spreco di acqua potabile è qua, in questo paese. Il numero più alto di morti sul lavoro è qua, in questo paese. Il numero, i salari, a proposito di sindacati, come dire, di sindacalismo economico ed economicista, non hanno retto e sono diminuiti se si raffronta al potere d'acquisto dell'8% del 2008, e potrei continuare a lungo. Credo che se avessimo dei dati seri, forse saremmo anche uno dei paesi con il record di tumori infantili a livello europeo, nella Terra dei Fuochi, a Taranto e non solo. Io credo anche in questi territori, anche perché il ruolo della narrazione lo si vede da quello che abbiamo appena ascoltato, perché tutto quello che è stato detto esiste, è esistito e temo continuerà ad esistere, ma esiste anche e soprattutto perché lo narri e perché arriva alla tua memoria e alle tue orecchie, altrimenti viene dimenticato. Noi rischiamo di dimenticarci di avere il deposito Eni di Calenzano qua a due passi, dove per 250.000 euro per risparmiare sulla manutenzione sono morti 5 lavoratori, e che è una piccola Ilva che ci troviamo qua in qualsiasi momento. Quindi ci capita spesso ultimamente, quando spieghiamo l'importanza della GKN, di usare il termine paese. Dovrebbe essere un termine che è, come dire, masticato dal sovranismo che in questo momento è al governo, almeno formalmente. E ti rendi conto invece, intanto lo striscione dietro fa quello che vuole, e ti rendi conto invece di come, arrivati a questo punto, uno delle cose che ha fatto questa lotta, più di 1000 presidi, contropresidi, denunce, manifestazioni, è stato ribaltare completamente perfino le parole d'ordine di cui si serve la destra, che gioca in maniera confusa per scatenare la rabbia dei lavoratori, per sovrascriverla su questa cosa del sovranismo, per creare in noi una rabbia selettiva, che è quella che ti fa arrabbiare se trovi la macchina rigata, perché sarà stato chi, lo zingaro, il rom, chi è che mi ha rigato la macchina, mentre contemporaneamente lo Stato ti può ammazzare, può fare decreti che ammazzano i tuoi cari, può sottrarti 800 miliardi di euro a livello europeo dicendo che tu non sei la priorità, perché sì, si può tagliare sulla sanità, sulla scuola, sulla vita, quello deve rimanere nel bilancio, ma la vera priorità, che è la guerra e la morte, quella no, ovviamente è fuori dal bilancio. Allora loro giocano con questo concetto, ma fondamentalmente la loro non è la sovranità, come dire, del territorio, ma è la sovranità sul territorio. Non è la sovranità di un indefinito popolo, è la sovranità sopra le teste di un indefinito popolo. È l'esatto contrario, perché se consideriamo il paese come luogo geografico dove si vive, il territorio come luogo che si attraversa e che quindi si compone di aria, acqua, bisogni, storie, scelte fatte dalle comunità, antropologia, tradizioni, storie, racconti, la classe, la nostra classe, è l'unica cosa che è veramente attaccata a questo territorio, che ne ha bisogno per vivere. Il capitale è sovranazionale, nel senso che sta sopra le nazioni e usa le nazioni per i propri fini, per dividere, per ammazzare, per dichiarare guerra. La nostra classe è internazionale, nel senso che non ha bisogno delle nazioni, ma ha bisogno di territori dove vivere e attraversare in pace. Questa è la caratteristica fondamentale, ed è per questo che la nostra classe è l'unico vero soggetto ambientale, ambientalista, radicalmente ambientalista, l'unica che conosce i territori, che li rispetta e che li attraversa, e si deve riappropriare di questi territori. E soltanto che per riappropriarsi di questi territori ha bisogno di competenze, di pensare, di reindustrializzare. Reindustrializzare vuol dire produrre in serie vita, perché l'industria serve a risparmiare tempo di lavoro, a produrre valore d'uso necessario a noi in sempre minor tempo e quindi liberare il tempo. Questa sarà la concezione dell'industria in un mondo differente, e servirà a liberare il nostro tempo e a servire i nostri bisogni in forma sempre più estesa e sempre più abbondante. Ecco, e per fare questo il lavoro diventa l'elemento fondamentale di questa riappropriazione pubblica dal basso. Nel fare questo noi semplicemente recuperiamo le tradizioni del sindacato ugualitaristico, dei consigli di fabbrica, del sindacato mutualistico, cooperativistico, conflittuale, rivendicativo, dove tu difendevi il tuo posto di lavoro come bene comune sociale, dove a un certo punto ti chiedevi a cosa serve il mio lavoro. Perché la lotta di classe, quando è coerente, alla fine finisce per narrare, e narrando disvela tutte le relazioni sociali che noi altrimenti non vediamo. La lotta di classe è inchiesta, la lotta di classe è narrazione. Senza la lotta di classe tu non sai, perché è la lotta di classe che disvela i nodi che altrimenti ti vengono nascosti alla vista. Ed è anche, sì, terapia, è l'unica terapia di gruppo, perché quando la società ti riempie di questo stato di disagio, di insoddisfazione, di rabbia, e non arriva la lotta di classe a permetterti di scaricare questa rabbia verso l'alto, laddove deve essere scaricata, questa rabbia rifluisce, diventa palude, e nella palude inizia a diventare disagio verso te stesso, a cui non riesci più a spiegare che cosa hai, che cos'è questo veleno che piano piano ti è entrato dentro, e allora ti affidi a soluzioni di natura individuale. Ed è soprattutto odio verso chi sta di fianco a te, perché poi nell'incapacità di organizzarti diventi anche vile, diventi una persona codarda, ti infetta una codardia, una viltà che è tipica della classe dominante, perché loro sono vili, non si prendono mai nessuna responsabilità, hanno sempre bisogno di una scusa, di un capro espiatorio, di una menzogna, e questa viltà ti entra dentro, e allora non riesci più a prenderti nemmeno la responsabilità individuale di non essere in grado di lottare, e devi scaricare questo verso chi ti sta a fianco, o peggio, verso chi sta sotto, e poi ancora più sotto, perché il sistema ovviamente è sempre bravo a farti trovare qualcuno che è sempre sotto di te. E allora, per terminare, questa lotta spesso si trova alla domanda: quando vinceremo? Abbiamo già vinto? Ci sarà una vittoria? Ma in fondo è già una vittoria essere arrivati fin qua, però è una sconfitta. Sono concetti estremamente difficili. Intanto possiamo dire una cosa: le lotte quasi sempre perdono, a volte vincono con delle vittorie parziali, perché per quanto tu vinca, alla fine, finché rimane in piedi questo sistema, ogni vittoria viene poi riassorbita. Ma tante lotte si sono trovate con un problema: quando vincevano? Visto che ogni vittoria è in fondo una vittoria parziale, e visto che a un certo punto la lotta si esaurisce, perché nessuna lotta è eterna, dove investo l'autorevolezza e l'esperienza e la tradizione che questa lotta ha lasciato? Questo è un problema che hanno tantissime lotte. Quante lotte oggi non sono narrate? La primavera di Melfi del 2004, l'Alfa Romeo, Pomigliano 2010, e potrei continuare, le lotte territoriali, Notav. Quante lotte a un certo punto dicono: beh, ma io, va bene, non ho vinto, però qualcosa ho qua, un'esperienza, delle storie, a chi le racconto? Dove le porto? Tante lotte si sono date la risposta: beh, buttiamoci in politica, una candidatura, alla prossima. E tante lotte da questo sono state anche distrutte, perché poi sono state macerate da questo. Ecco, intanto noi oggi una risposta ce l'abbiamo, perché dobbiamo iniziare anche a vedere quello che già esiste. Il Festival di Letteratura Working Class esiste, è quello che noi lasciamo, è quello che noi continueremo a lasciare, e se questo festival un domani non narrerà la ex GKN, narrerà tante altre lotte e continuerà a narrare. Intanto questa è una prima risposta. Se c'è un pezzo di vittoria da investire nel futuro, questo festival è un fatto, piccolo o grande che sia, è un fatto che noi lasciamo, che non ci divide ma ci continuerà ad unire. Grazie. Dunque, Lupetto, grazie. Ci stiamo avvicinando alla chiusura, ci sono un paio di annunci. Ci tenevo a dire una cosa che negli ultimi mesi, non so attorno a voi, io attorno a me ho sentito salire proprio un'epidemia quasi di malessere. questo malessere, però io sono sempre più convinta, è rabbia che non parla, ed essere qui e ritrovare le parole, e quindi proviamo a coagulare queste parole anche grazie a strutture come queste che consentono alle parole di mettersi in fila, di dire cose che magari abbiamo avuto nella gola per troppo tempo. Volevo ripassare la parola ai compagni di Taranto, perché così fanno, ci fanno un annuncio brevemente. E ma è semplice, noi vi aspettiamo all'1 maggio Libero e Pensante di Taranto, perché insieme al collettivo GKN, che è ospite fisso, perché conoscersi e riconoscersi dà una forza incredibile. Prima, quando facevamo il giro della fabbrica, Dario parlava e riconoscevo la loro rabbia, la passione, la volontà di costruire la propria visione, di averla capita e volerla costruire. Allora, il nostro documento politico quest'anno si chiama Questione di genere, di vita e di morte, perché è la nostra risposta ad una narrazione del dominio, ovunque esso venga affermato, quindi contro ogni forma di discriminazione, contro ogni forma di inganno, contro la guerra che combattiamo, però andando a riarmarci, contro le violenze di genere, contro ogni forma di fascismo. Vi aspettiamo, perché immagino, e in questo caso l'abbiamo visto, condividiamo le stesse visioni, e buon proseguimento a questo evento veramente rassicurante, ecco, in un momento come questo. Grazie Virginia, Raffaele, Dario, Gea, invito a salire sul palco tutti gli organizzatori per i saluti finali. Grazie a tutte e a tutti. C'è un comunicato, passo un secondo la parola. Beh, buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo portarvi il saluto dell'arcivescovo di Firenze, Don Gambelli, che voleva essere qui, ma purtroppo è all'impunita. Però lui scrive: unito a voi nella preghiera, e chiede di fissare a voi un incontro qui. E per me, che sono svizzero, che sono qui dal 2019, questa frase di Monsignor Gambelli è il ritorno ai preti folli, a Barbiana, cioè all'isolotto, cioè a quella realtà della Chiesa Cattolica che ha visto Firenze come dei luoghi straordinari. Quindi grazie, arrivederci. Grazie. Allora, siamo arrivati alla chiusura di questo festival, e per darci un po' anche i numeri e i progetti per il futuro e chiudere, quindi vieni Alberto, siediti, Dario rimane qua, invito anche a salire Eugenio Ghignoni e Cristina Trinci dei premi letterari Working Class. E era, diciamo, chiudiamo anche controvento, abbiamo visto c'è, cioè, controtempo, contro tutti, contro tutto e contro il vento. Quest'anno siamo riusciti a fare un'edizione, direi, incredibilmente più grande anche degli scorsi anni. Abbiamo scelto di farla in uno spazio che è, se vi ricordate, dove abbiamo fatto l'anno scorso, per chi c'era, almeno 5 volte. Ci spaventavano un po' all'inizio gli spazi, se saremmo riusciti a saturarli, e invece ieri addirittura erano pieni all'inverosimile. Noi abbiamo provato a contare quanti siamo stati in questi giorni, e tra i 1000 il primo giorno, 2000 che hanno seguito il secondo giorno, 1500 oggi, altri 2000 e passa che si sono aggiunti solo al corteo, 7000 persone hanno partecipato a questi 3 giorni di Festival di Letteratura Working Class. E ieri credo che si possa dire, visto che abbiamo venduto circa 3000 libri, credo che si possa dire che ieri, che c'erano 5000 persone in corteo, sia stato il corteo con la più alta percentuale di persone con un libro in mano che manifestavano. E questa forse è proprio la lotta di classe con i libri, di un festival che appunto sta in piedi senza finanziamenti, sta in piedi grazie ai 508 quest'anno sostenitori del crowdfunding, 100 persone in più dell'anno scorso, il primo anno erano 300, il secondo 400 e quest'anno 500. I volontari credo siano stati 300 che hanno permesso tutto questo, i turni, le traduzioni, i banchetti, la cucina veramente straordinaria, il Circolo Arci a Campi Bisenzio che ci ha ospitato ieri sera. E poi ringrazio particolarmente tutto il comitato organizzatore, Emily, Fabiola, Alessio, Valentina, Francesca, Simona, Beatrice che ha seguito lo spazio Bimbi, che anche in parallelo a tutto il programma ha coinvolto decine e decine di bambini e ragazzi che sono stati qui con noi, Pietro dell'Arci che ha gestito anche insieme a Massimo e Alessio tutta la parte anche delle luci, della musica, dell'audio, un lavoro veramente straordinario, e sicuramente mi sto dimenticando qualcuno. Rapidamente i progetti del futuro: ci sono due interventi che appunto abbiamo chiesto di fare a Cristina e Eugenio, perché in questi anni sono nati due premi di letteratura working class che in qualche modo si sono intrecciati anche col nostro lavoro della collana. Uno è appunto quello di Montelupo, del comune di Montelupo Fiorentino, il Pane delle Rose, e uno è il premio della Fondazione Di Vittorio e della CGIL di Roma e Lazio, che l'anno scorso ha avuto la sua prima edizione. Quindi do in primis la parola a loro, poi Alberto ci parlerà del futuro, in qualche modo, del festival, legato anche all'idea del polo di cultura working class che vogliamo che sia dentro la reindustrializzazione della fabbrica, e Dario alla fine del progetto di mutuo soccorso Insorgiamo, che in qualche modo dà la struttura a tutto questo tentativo di avere un futuro, di darci una prospettiva, di essere tutto, come ci siamo detti. Quindi Cristina. Grazie. Grazie intanto per ospitarci per la seconda volta su questo palco. Il nostro premio è giunto alla sua quarta edizione, è nato da un'idea insieme a Alberto Prunetti, dalla presentazione dei suoi libri presso la nostra biblioteca di Montelupo Fiorentino. Montelupo è un comune piccolo, non raggiunge i 15.000 abitanti. E mi preme dire che forse la cosa più importante che posso dire qui oggi è che se l'ha potuto fare un piccolo comune come Montelupo, lo possono fare davvero tutti gli enti pubblici, ma direi anche altri soggetti privati. Quello di portare la coscienza di classe in tutto ciò che facciamo, e quindi inventarsi progetti, inventarsi azioni, iniziative che riescano a promuovere e a stimolare la riflessione sulla coscienza di classe, sul mondo del lavoro, sui diritti dei lavoratori. Credo che questo sia l'insegnamento più importante. E mi preme anche dire che appunto il nostro premio ha raggiunto in questi anni obiettivi che vanno ben oltre quello che ci aspettavamo, e cioè la pubblicazione di un'antologia con i racconti vincitori, grazie appunto ad Allegri e a Alberto Prunetti, e anche una seconda antologia pubblicata da Edizioni Piagge nella collana Mescidanza, diretta da Simona Baldanzi, e Il lavoro non si cancella, si chiama anche questa, in vendita qua, e credo che insomma sia quanto di più importante potessimo fare, oltre ovviamente a dare la possibilità, allo spazio, a ben l'anno scorso 110 autori, di raccontarsi in questo modo, attraverso la narrativa breve che parla di lavoro e che quindi riesce di nuovo a portare questa tematica e queste persone al centro della nostra discussione anche pubblica. Grazie a tutti. Buonasera a tutte e a tutti. Noi siamo forse quelli più piccoli, loro sono la quarta edizione, il festival è alla terza e noi siamo alla seconda edizione. Come Fondazione Di Vittorio, IRES Lazio, CGIL Roma Lazio, abbiamo pensato di organizzare un premio letterario dedicato alla letteratura del lavoro, e in particolare ai romanzi editi e a racconti inediti. E la seconda edizione ha scadenza appunto il 1° maggio per i racconti editi, e per i romanzi editi, e per i racconti la scadenza è il 1° giugno. In questi anni abbiamo visto, come dire, un contrappeso che si è venuto sviluppando. Mentre l'industria culturale non solo cantava la fine del lavoro e la fine della lotta di classe, le iniziative invece di letteratura del lavoro sono fiorite e hanno trovato anche le loro forme d'organizzazione, a partire dal Festival della Working Class. Si tratta della letteratura working class, si tratta di continuare in questa direzione, tornare a dare la visibilità al lavoro, non solo con le tante, con le molte, con le sacrosante vertenze sindacali, ma tornare a dare visibilità al lavoro, ai diritti e alle lavoratrici, ai lavoratori, attraverso anche iniziative nel campo culturale, in questo caso letterario, e anche con iniziative di supplenza sul terreno politico, lì dove è necessario, come nel caso dei prossimi referendum. E noi abbiamo intenzione di continuare su questa strada, tant'è vero che pensiamo che queste iniziative vadano incrociate. Dico una battuta su Montelupo: è stato molto utile parlare di Montelupo Fiorentino, del suo premio con il comune di Roma Capitale, per dire dovete partecipare anche voi, non vi potete sottrarre, no, a quello che è un dovere dal punto di vista sociale e civico. Così come insieme alla casa editrice Allegre stiamo curando la pubblicazione nel prossimo mese di giugno dei racconti inediti della prima edizione, che usciranno appunto tra un paio di mesi. E quindi pensiamo che queste iniziative si debbano moltiplicare, pensiamo che le collaborazioni debbano continuare, massima visibilità al lavoro, massima visibilità alle lotte del lavoro e per il lavoro e per i diritti. Grazie. Due parole su... Dopo questo ciclo passato, presente e futuro della letteratura working class, cominciamo subito a far sì che il futuro diventi presente. Abbiamo detto all'inizio che dovevamo lavorare sempre di più sul tema dell'internazionalizzazione. Faccio un esempio molto concreto di come da un festival si riparte verso un altro. Abbiamo sentito questo bellissimo racconto sulle esperienze dei lavoratori migranti asiatici con Luca Lei Zhang. Abbiamo visto alcune persone di origine asiatica, appunto, che hanno partecipato nel pubblico. Uno di loro mi ha avvicinato dicendo che stava raccogliendo storie, è nato qua, sta raccogliendo storie dei lavoratori che vivono in questo territorio, storie di operai di questo territorio, e vorrebbe capire se nel festival del prossimo anno c'è modo di parlare della letteratura cinese, degli operai cinesi della piana campigiana, perché siamo internazionali e siamo radicati in questo territorio. Questo è proprio un esempio di come da un festival poi nasce un libro, da un libro nasce un festival. Questa è la dialettica in cammino, è la talpa che scava, è quello che stiamo facendo, lavorando attorno alla classe. Andiamo avanti con tanti altri progetti. È un'istanza che ci hanno presentato gli stessi operai del collettivo di fabbrica. Sono stati loro per primi a sentire il bisogno di dotarsi nell'idea di reindustrializzare dal basso la nuova fabbrica attraverso la cooperativa operaia che sarà formata. Dentro al progetto di fabbrica ci sarà non solo la produzione di merci sostenibili dal punto di vista ecologico, integrate a un territorio. Questo progetto di integrazione passa attraverso un'idea nuova di fabbrica, che non è appunto quello spazio recintato e chiuso in cui comanda il padrone e gli operai producono, ma è uno spazio vitale di lavoro e tempo vivo, poroso, aperto alla comunità che circonda la fabbrica e l'abbraccia, e che da una fabbrica non si aspetta solo lavoro morto, ma anche si aspetta tempo vivo, si aspetta il pane, si aspetta le rose, vuole anche la produzione di cultura. E ci sarà un polo culturale, è già nel piano, e speriamo che il piano diventi futuro e un futuro diventi presente. Ci sarà il polo culturale working class, che sarà tante cose insieme, sarà archivio delle lotte presenti, delle lotte passate, sarà archivio della memoria di fabbrica, non solo della fabbrica che ci sta alle nostre spalle, ma della Fiat di Novoli, che è poi un pezzo di una storia, di un racconto più complicato, più complesso, di un pezzo importante della storia industriale del nostro paese, che deve essere solo raccontato dalle persone che hanno privilegio, che va raccontato sempre solo in un'ottica aziendalista, no? Mentre noi proviamo a raccontare le cose non nell'ottica dello storytelling aziendalistica, ma nella dimensione conflittuale della lotta di classe. Quindi sarà un altro racconto il nostro rispetto a quelli dello storytelling aziendalista. E ci sarà la possibilità di dare una sede fisica, in qualche maniera, al festival. e ci sarà la speranza anche di in qualche maniera alimentare, noi vorremmo in chiave internazionale, quindi perlomeno in tutta Europa, dove già il nostro festival è in qualche maniera un esempio emblematico di qualcosa che andrebbe riprodotto in altre lingue, di intrecciare sempre più contatti con la letteratura working class di altre lingue e di sperare di poter in qualche maniera riprodurre in ogni paese un festival come questo, perché sono queste dimensioni di lotta e di racconto che permettono in qualche maniera di far sì che la classe operaia rimanga in qualche maniera orgogliosa di se stessa, delle sue storie, e non ricada in qualche maniera in un soggetto sfruttato, pronto a essere macellato da chi voglia farsi imprenditore della paura. Voglio dire solo questa cosa qua, che non si tratta nemmeno in fondo di qualcosa di estremamente nuovo. In passato c'è in qualche maniera le casse del popolo, l'esperienza del mutuo aiuto, del mutuo soccorso, i crala aziendali, in qualche maniera avevano già questo germe di idea. Quello che faceva Olivetti, Adriano Olivetti dentro a Livrea, era qualcosa in fondo, non era così lontano, però la differenza sta in questo, che allora era, questo progetto veniva fatto da un padrone illuminato. E allora va bene, allora si studia all'università, allora se ne decanta le lodi, il progressismo, è cosa meravigliosa. Se invece è una cosa del genere, come quando abbiamo provato a farla fin dal primo anno, dal basso, nata dentro la lotta, espressione della volontà di un collettivo di operai in mobilitazione, quella cosa era assolutamente da denunciare come una forma, voglio dire, da raccontare in maniera caricaturale, come dei gruppi di ravers che si erano impossessati di una fabbrica per fare casino, no? Quindi questa è la differenza, appunto, fra il corpo a corpo attorno alle parole, allo storytelling che dobbiamo sempre fare. E niente, io voglio chiudere con un auspicio e in qualche maniera delineare un'idea, ecco, quando si pensava al primo festival gli altri stavano già in qualche maniera un po' un'idea, un piano, perché bisogna lavorare anche su piani, non bisogna aver paura di pianificare. Io chiaramente c'è un ciclo che si è visto, si è un po' chiuso, il passato, il presente e il futuro, 3 anni. Io ho sempre avuto dentro di me una sorta di pudore a dire dove puntavo in qualche maniera, una sorta di piano quinquennale della cultura, e l'ho detto un paio di volte e mi hanno guardato un po' male i miei stessi diciamo compagni di progetto. Però quando ieri ho sentito davanti alla fine del corteo Dario Salvetti ha usato la stessa una parola che stava nella mia testa, questa parola era vittoria. Io avevo, dopo genealogie, geografie e prospettive, passato, presente e futuro, ci doveva essere transizione e vittoria, e così il piano quinquennale della cultura working class doveva arrivare al suo. Io non lo so, adesso non voglio essere scaramantico, però è su questo che vorrei continuare a lavorare, e su questo proviamo a abbracciarci, poi magari prenderemo un altro percorso, forse saremo sconfitti ma non vinti, e forse invece potremo pronunciare anche questa parola. Vi ringrazio e vi abbraccio a tutti e a tutte. Grazie Alberto, e l'ultima parola anche per presentare il patto di mutuo soccorso a Dario, e comunque l'ultimo grande ringraziamento va al collettivo di fabbrica, agli operai della CKN, perché se tutto questo è possibile è per 1367 giorni di presidio permanente di questa fabbrica. Prima che Dario prenda parola volevo dire una cosa tecnica. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i volontari dell'interpretariato, hanno fatto un lavoro spaventoso, durissimo e faticoso, e li ringrazio. E poi vorrei chiedere a tutti i nostri ospiti internazionali che stanno utilizzando le radioline di ricordarsi, appena finiamo, di restituirle al punto mixer, perché vanno restituite, erano a noleggio. Grazie. No, non è un discorso finale, è veramente solo un saluto, un far presente varie questioni. Innanzitutto, vabbè, una dedica finale al festival che noi ci sentiamo sempre di fare, alla figura di Lorenzo Orsetti. È stato particolarmente per noi emozionante avere nello stesso festival una sessione sul lavoro nella ristorazione, che era appunto dove lui lavorava, e contemporaneamente un simbolo come la Venere, che viene da un mondo che Lorenzo aveva frequentato e che oggi incontra ancora di più la fabbrica insieme alla sua figura. Per il resto, un ringraziamento oltre naturalmente al collettivo, alle volontarie e volontari, ma soprattutto a chiunque è passato in questo festival, per tutta la pazienza che ha avuto, Io quando vedo le nostre inefficienze organizzative da dentro mi arrabbio, anche perché di solito sono polemico. Io non so se passerei 3 giorni in un festival con le code ai bagni, con la tessera a fare l'entrata, con il vento, e invece ci avete aiutato pazientando su ogni cosa e mettendovi a disposizione in ogni modo, compreso il fatto di aver creato un clima veramente commovente, emozionante, che chiunque era interno a questo festival ha sentito. Questo intervento però in particolare per far presente che oltre ormai a un livello di solidarietà importante che sorregge questa avvertenza e a cui potete rimanere agganciati attraverso il sito insorgiamo.org, i gruppi InfoGKN, i social, e vi chiediamo di continuare a rimanere agganciati a questo livello di comunicazione, perché maggio, giugno e luglio saranno mesi in cui dobbiamo provare ad agganciare questa vittoria. Ci siamo fatti la domanda: dove ci troverà la primavera? La primavera ci ha trovato al nostro posto, dove dovevamo essere, a resistere anche e nonostante le lettere di licenziamento. A questo punto la vera domanda è se l'estate 2025 sarà l'estate della vittoria. È la domanda che dobbiamo lanciare, è la domanda che proveremo a lanciare, per cui che l'anniversario della lotta, che sarà il 9, il 10, l'11, 12 luglio, quei giorni lì, arrivi a farci, a rispondere a questa domanda. E se non della vittoria, a che cosa lascia questa vertenza? Tra le varie cose che lascia questa vertenza, oltre a questo festival, c'è il fatto che dalla solidarietà siamo arrivati alla sorellanza, perché alcune realtà solidali ormai in questi 2 anni si sono messe così a disposizione che ormai vivono completamente in simbiosi con questa vertenza, senza nulla togliere a tutte le altre, ma sono praticamente corpo, giorno, notte a disposizione. Mi sento di dire Comunet, Rimaflo, Fuorimercato, ovviamente le edizioni Allegre, tante e tanti circoli dell'Arci che ormai sono completamente dentro questa nostra rete di solleranza. Con loro abbiamo dato vita a un patto di mutuo soccorso che si era già espresso il 17 novembre in piazza Poggi, e che continuerà a cercare di elaborare pratiche di mutualismo, perché la forma società operaia di mutuo soccorso Insorgiamo sia estendibile anche laddove non ti trovi a Firenze e quindi non puoi aderire direttamente a questa forma di lotta. Vi ringrazio.